siamo convinti oggi più che mai sia necessario entrare in contatto con la realtà migratoria per favorire non integrazione, che sa più di assimilazione ai nostri valori e alla nostra cultura, ma un'interazione che permetta la reciproca scoperta dei valori e della cultura di cui ognuno di noi è portatore. Regia, ci mandate un po' di sigla? Visto che fa freddo, vogliamo riscaldarci un po'. Alziamo le mani, facciamoci sentire, siete già numerosissimi, nonostante il caldo, nonostante l'orario. Benvenuti, benvenuti a tutti. Forza, no, non mi piace, di più, forza, forza. Siete sempre molto belli, tutti colorati. Secondo microfono, per favore. Tu. Noi siamo pronti, guardate quanti ne siamo sul palco. E voi? Prima che mi rimproverano perché urlo troppo nel microfono, voi fatevi sentire, ci siete? Salerno c'è? C'è tutto il mondo? Ok, allora, siete sempre molto belli, colorati e soprattutto sempre più numerosi. Spero anche pronti a far sentire il vostro calore umano, mi raccomando. Non siate avari di applausi, ok? Il termometro già fa risultare delle belle temperature, però noi lo facciamo salire ancora di più. Facciamo la prova, 1, 2, 3. Su! Grandi! Ok, adesso ci raccogliamo per un momento serio. Ecco, se sfumiamo la musica, grazie. Iniziamo la nostra festa dei popoli. Da diverso tempo il tema dell'immigrazione è trattato e discusso come un problema, un rischio per la cultura italiana e la popolazione. Al migrante si associano, senza analisi soggettiva e con pregiudizio, comportamenti illeciti, condizioni di pericolo, rischi per l'incolumità dei cittadini. Stiamo vivendo un'epoca di forti cambiamenti e crisi sociali dovute ad eventi politici, economici ed ecologici che spingono masse di donne e uomini ad abbandonare le proprie terre di origine alla ricerca di un futuro migliore. Se non ben compresi e governati, questi fenomeni rischiano di creare un clima di incertezza e di paura che mina alla base delle relazioni interpersonali e sconvolge le regole di convivenza civile. Ecco, adesso come ogni anno vogliamo, ecco, pregare insieme nella diversità anche delle fedi religiose, delle provenienze, per la pace e l'armonia tra i popoli. Ecco, passo la parola a Padre Franco che ci farà un saluto a nome della diocesi. Sua eccellenza Monsignor Moretti non è potuto essere qui, ma ecco, noi siamo vicini perché lui ci ha appoggiato da 11 anni in questa esperienza. E passo la parola a Padre Franco. Grazie, io vorrei semplicemente ringraziare intanto tutti quelli che hanno organizzato questa festa dei popoli, che ha un significato che va al di là del nostro essere qui, ma che si apre ad una prospettiva davvero, io la chiamo di testimonianza, perché dobbiamo dare dei segni visibili, dei segni importanti sul nostro essere Chiesa. E credo che all'interno della diocesi, gli uffici della Caritas, l'ufficio missionario, quello dei migrantes, il centro missionario, i missionari e i laici saveriani sono dei punti di riferimento importanti. Che cosa dire in questa occasione? Dire anzitutto che è bello essere qui per condividere un momento di festa tra le diverse comunità migranti che sono presenti sul nostro territorio. Questo ci aiuta a capire la ricchezza delle diverse culture, senza fare un ordine, dare delle priorità, perché ogni cultura ha i suoi valori e penso che le parole di Papa Francesco su questo tema siano abbastanza chiarificanti, là dove usa i quattro verbi che sono significativi non solo per quanto riguarda la situazione dei migranti, ma riguarda tutto il modo di vivere e di agire della comunità cristiana. Dobbiamo imparare ad accogliere, dobbiamo imparare a proteggere, dobbiamo imparare a promuovere e integrare tutti coloro che vengono considerati dalla società gli ultimi, ma che per il Signore Gesù sono i primi. E allora io credo che oggi non è in gioco solo la causa dei migranti, ma di tutti noi, perché siamo chiamati a riflettere sul nostro modo di vivere da cristiani, cioè a liberarci dall'indifferenza, a liberarci dalla cultura dello scarto, per usare ancora le parole di Papa Francesco. Si tratta di mettere gli ultimi al primo posto e il fatto di fare festa insieme credo che sia importante, perché è nella festa che si manifestano i rapporti umani veri, che uniscono e non dividono, i rapporti umani che ci fanno conoscere tra persone diverse sì, ma figli dello stesso padre. E allora grazie per tutti coloro che hanno organizzato, perché questo momento diventi sempre più un'occasione di incontro, di conoscenza, di amore fra le varie realtà presenti nel nostro territorio. Adesso vogliamo vivere col giusto raccoglimento, la giusta attenzione anche spirituale per quell'uomo e anche fede, anche spirito, per cui ecco, abbiamo su questo palco le diverse confessioni religiose, le diverse anche rappresentanze religiose delle comunità presenti. A turno ecco ci alterneremo e ciascuno pregherà secondo il proprio rito e la propria lingua. Noi ecco pregheremo in sintonia un po' tutti insieme, facendo silenzio quando prega qualcuno di cui la lingua o il rito non conosciamo, o accompagnando nella preghiera quando ci sentiamo interpellati per lingua o per provenienza. Quindi chiediamo alla piazza ecco di avvicinarsi e di mantenere questo clima di preghiera. Passo la parola a Don Marco, ecco, come Chiesa Cattolica. Noi abbiamo la preghiera per eccellenza, sono facilitato in questo e vorrei anche che quello che questa sera ci unisce proprio per un attimo, se abbandonassimo i vari concetti che ci differenziano. A volte partiamo dalle diversità e troviamo difficoltà a trovare unità. La preghiera che recitiamo invece ci fa partire da una unità la quale poi nella sua ricchezza e nella sua potenza, nella parola amore, farà realizzare le specificità, non le diversità, che ciascuno di noi ha e che mettendola in comunione dal punto di partenza, Massimo, ritornano a far crescere lo stesso punto da cui siamo partiti, che è Dio e che è il bene di ogni uomo. Ecco, con questo spirito che questa sera invito voi e me a pregare con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Adesso continuiamo la preghiera in lingua portoghese attraverso l'accompagnamento di Fappati, ricordando tutti i popoli che pregano in questa lingua. Esempio di Francisco de Assis, che foi o homem que propagou o amor, a paz e o bem. Peçamos ao Senhor da vida que possamos seguir exemplos de tantas pessoas que doaram sua vida por amor ao próximo, pela unidade das pessoas, pelo bem dos seus semelhantes. Que Francisco de Assis seja para nós esse homem que ensine a caminhar os passos desse amor, para que possamos ser instrumentos de paz, instrumentos de misericórdia, que não possamos julgar, mas que possamos dar as mãos e conviver como uma família neste mundo que nós chamamos de terra. Tudo isso pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ecco, forse non comprendiamo la preghiera, ma siamo sicuramente in sintonia col pregare il Signore per la pace e l'armonia tra i popoli. Quindi adesso, ecco, passiamo la parola a Padre Filippo Bogdan, che è rappresentante della comunità rumena ortodossa di Salerno e provincia. Grazie, buonasera a tutti. Invito la comunità, le comunità rumena e moldava, di dire Padre nostro nella lingua rumena. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Adesso continuiamo con Padre Gabriele, arcimandrite della comunità georgiana italiana e cura anche la comunità georgiana salernitana. Buonasera, grazie. Mamma Ucveno, Romeli Kharzatashin, Tzbida Iqao Sakhelishen, Moveden Supevashen, Iqao Nebashen, Itarzatzatashin, Egretzakwekanasazeda, Puri Cveni Arsobisam Momes Cvendres, La momita ven cuenta ana de bni cueni, tarza cuen miut talam de ptama cuenta. La nushemi cuanem cuen gasas telsa, aramed mixen cuen porot isaga. Rametu shenir supeva zali da dideba, mami sa da zi sa da zvidi sa sulisa, az da maradis da ugoni ti ugoni samde, amin. Continuiamo questa preghiera che ci vede uniti nel tutto il mondo con Rodolfo, per la comunità filippina di Salerno. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Adesso ecco, trianti della comunità cattolica sirilanchese di Salerno. Swargi Vedsirinapagi Pianani. ඔබගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා ඔබගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙන් මෙන් මිලදීතු වේවා අපගේ ඉදිරිදා භෝජනය අද අපට දානය කළමනව අපට වැඩි කන්නයගේ වැඩි අප කමා කරක් නාක් මෙන් අපගේ වැඩිද කමා කළමනව පාපාස්ථාන්ට අසීමට අපිට ඉඩ නොදී අහම් පිටින් අප මුදාගත මැනව ආමෙන් adesso Tamira della comunità buddista sirilankese di Salerno. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhan sarnam gacchami dhamman sarnam gacchami sangham sarnam gacchami utyampi buddhan sarnam gacchami utyampi dhamman sarnam gacchami utyampi sangham sarnam gacchami Tatyampi Buddhan sarnam gacchami, Tatyampi Dhamman sarnam gacchami, Tatyampi Sangham sarnam gacchami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhyami, Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhyami, Kamesu Vichachara Veramani Sikkhapadam Samadhyami, Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhyami, Sura mere machapama dattana veramani sikkhapadam samadhyami. Adesso passiamo la parola a Eddie, imam della moschea di Battipaglia, della comunità musulmana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La pace sia con voi. L'unica preghiera adesso che devo fare. Cari fratelli, Allah dice, noi vi abbiamo creato popoli, popolo, e diverse tribù per conoscere الله يا إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كاريسيمي فراتيلي سوريلا أنكا كوستانو كون جويا سيامو كون فوي سيامو كون برسترينجري nuovamente in un grande abbraccio comune. Allah nel Corano ricorda a tutti gli uomini che se essi trovano attorno a loro delle diversità di popoli, razza, colori, colori delle pelle, colori di culture, di modi di vita, di pensieri, è perché lui, il creatore, ha voluto decretato che fosse così. In questo suo scopo troviamo due istruzioni molto importanti, un chiaro invito a sviluppare la conoscenza per non rimanere nell'ignoranza, a aprirsi e avvicinarsi vicendevolmente uno all'altro. Conoscenza e vicinanza, il contrario, cioè l'ignoranza e lontananza. Se si rimane nell'ignoranza, è risaputo che sorge automatico respingere ciò che non si conosce, richiedendo sì in se stesso. La fratellanza perciò richiede conoscenza e vicinanza, quella che raccontiamo noi oggi per onorare l'ampiezza del mondo e per onorare l'ampiezza del mondo e per dire a tutti che noi c'è alternativa, che non c'è alternativa, non esista. Cari fratelli, voglio concludere con una sura del Corano, Sargim Sallallahu Rahman Rahim, una preghiera alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vi ringrazio cari fratelli e buona festa. All'anno prossimo se Dio vuole. Allora adesso continuiamo questo momento di raccoglimento con la comunità Sikh e tra i loro Dio di preghiera. Buonasera a tutti. Sasriyakal, vi porto il saluto dalla comunità indiana e dal tempio Sikh Gurdwara Sangat Sebha di Battipaglia e vi ringrazio per aver scelto di venire insieme a noi questo momento di fratellanza uniti nella differenza. Buona festa dei popoli a tutti. Poi vogliamo ricordare padre Ivan della comunità ucraina che per un imprevisto di salute non è qui ma ci accompagna. Ah, scusami, continuo. Vaiguchi ka khalsa, vaiguchi ki fateh, vasri pagoti si, sri vasri pagoti ji ki paashai dashmi, pitham pagoti si, mere ko nank leiti aaye, fir guru angad te amal das, ram das hoi sahai, arjan har govindro, simra sahir harai, hari krishan te aaye, ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਿਉ ਨੀ ਦਿਆ ਪਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਓਕੇ ਦੋਪੋ ਕੁਸਤੋ ਮੋਮੈਂਟੋ ਏਕੋ ਦਿਆਮੋ ਲਾ ਪਾਰੋਲਾ ਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਾਟੋਰੀ ਪਰ ਕੰਟੀਨੂਆਰੇ ਲਾ ਫੇਸਟਾ